Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. La nostra nuova settimana si apre come sempre con l'approfondimento insieme all'Adico di Mestre. Saluto quindi Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, saluto agli ascoltatori. Allora, con te Gianluca parliamo di Equitalia, perché vi è capitata tra i vari vostri soci una cosa particolare che vogliamo raccontare. Sì Francesco, vogliamo raccontarla anche perché appunto stiamo ancora cercando di risolverla, perché è molto particolare, però insomma speriamo di arrivare a capo. Adesso noi sappiamo che fra un po' finalmente, diciamo, aggiungiamo, Equitalia non ci sarà più, quindi noi per questo siamo anche abbastanza contenti. Non so cosa sarà dopo Equitalia, però siamo anche contenti perché speriamo che non si verifichino situazioni come questa che siamo andati ad affrontare 2 settimane fa. Praticamente una signora si è rivolta a noi. Questa signora appunto ha un lavoro part time e ancora alcuni anni fa si è vista recapitare una cartella di Equitalia bella sostanziosa di circa 9.000 euro e per delle contravvenzioni, multe, bolle non pagate, relative tra l'altro a una vettura insomma per la quale insomma, si sta cercando anche di capire in realtà se veramente queste contravvenzioni siano giuste o meno. In ogni caso, noi non siamo andati ad affrontare questo tipo di problematica. La signora si è rivolta a noi perché è successo questo. Sta pagando praticamente da alcuni anni questa grande cartella tramite la cessione del quinto dello stipendio che gli è stato appunto è stato richiesto da Equitalia al giudice, in realtà, perché il passaggio è quello. Per cui questa signora sta dando ogni mese un quinto del suo stipendio e Equitalia l'ha incamerato, tanto da aver raccolto comunque quasi metà del debito dovuto, perché è da parecchi anni che sta pagando. Il problema però, Francesco, è che il quinto dello stipendio di questa signora è un quinto molto basso, perché la signora prende 200 euro al mese. In buona sostanza, una decina di giorni fa, quindi poco prima, dopo si è rivolta a noi, una decina di giorni fa Equitalia gli ha inviato una nuova cartella e con un'altra cifra importante sui 6-7 mila euro, e che sono praticamente quasi tutti imputabili a degli interessi relativi alla prima cartella. Cosa significa? Significa che Equitalia fondamentalmente ha caricato di interessi la cartella precedente da 9.000 euro. Per quale motivo? Perché questa è la cosa particolare. La signora è andata ad informarsi dall'agenzia di riscossione, e ne hanno spiegato che, essendo troppo bassa la rata mensile, essendo troppo basso lo stipendio fondamentalmente, loro hanno dovuto calcolargli ancora degli interessi, e in parole povere questa signora si trova a pagare una cartella praticamente analoga. Ora, stiamo muovendo con il nostro ufficio legale, perché la storia è recente, vogliamo capire esattamente cosa sia successo, perché non ci sembra possibile, insomma, visto che la cessione del quinto è stata chiesta da Equitalia e era stata accettata, quindi alla fine non si è capito perché si siano caricati di interessi questa prima cartella. Sicuramente la prima cosa che farà la signora, e che la farà urgentemente, la farà il prima possibile, sarà quella di chiedere la rottamazione, perché c'è questa possibilità adesso. E quindi noi speriamo che nel momento in cui Equitalia accordi questa rottamazione, praticamente dovrebbe sparire tutta la cartella con gli interessi e le more, perché questo dovrebbe essere il concetto. Resta il fatto che, Francesco, continua ad esserci qualcosa che non va in questo meccanismo di questa agenzia di riscossione, e è anche per questo che evidentemente anche dopo le tante proteste dei cittadini si va ad abolire, ci chiediamo però cosa arriverà dopo, perché ovviamente non ci aspettiamo che poi, se abbiamo dei debiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e non gli paghiamo, non arriverà qualcosa tipo Equitalia. Quindi staremo a vedere cosa succederà. E ci auguriamo però che il modo di operare di chi arriverà dopo sia molto, molto più trasparente, molto meno invasivo, perché devo dire, Francesco, che in questi anni, insomma, comunque da parecchio tempo, noi abbiamo assistito persone che a causa di Equitalia sono state messe in ginocchio. Sì, è un po' il contrario del nome, no? Di equo c'è poco. Di equo c'è molto poco, perché abbiamo visto tutti che Molto spesso ci siamo ritrovati con dei crediti che sono raddoppiati a causa degli interessi e delle more. Questo non dovrebbe succedere, soprattutto con le multe e con le contravvenzioni. Abbiamo visto che, abbiamo parlato già altre volte anche nella tua trasmissione, nella vostra trasmissione, abbiamo visto che tante volte appunto le multe raddoppiano, se non triplicano, quando passano in mano ad Equitalia. Quindi ci si trova di fronte a situazioni paradossali, perché se una persona ha difficoltà a pagare, perché solitamente una persona che dopo riceve una cartella di Equitalia la riceve perché appunto ha difficoltà a pagare, si trova a pagare il doppio del suo debito, si capisce che ci si trova in una situazione tale per cui non se ne esce più. Esatto. Quindi infatti ci sono persone che non escono, che non riescono ad uscire da un debito dietro l'altro, appunto. Adesso vedremo cosa succede con l'abolizione, saremo molto attenti e ci auguriamo davvero che le cose cambino. Speriamo che anche il nome sia scelto in maniera seria e che rispetti poi alcuni valori, diciamo così. Di equità, appunto, in primis, vabbè. Sicuramente. Grazie quindi a Gianluca Codognato, ricordo il sito dell'ADICO www.associazionedifesaconsumatori.it, andatevelo a vedere e nel caso abbiate necessità trovate anche i contatti telefonici per chiedere lumi e informazioni all'ADICO. Grazie Gianluca. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.